Ehi! Questo baccano, che succede? È la stampa, bellezza, la stampa. La rassegna stampa di Radio 24. E tu non ci puoi far niente, niente. Buongiorno, buona giornata a tutti da Marina Macelloni del Sole 24 Ore, ancora con voi per la lettura dei quotidiani oggi in edicola. Sulle prime pagine di oggi trovate ancora tanta politica, con il nuovo fronte aperto dalla Lega nel governo, le prese di posizione dei vescovi contro la tassa sul permesso di soggiorno, ma anche la cronaca con la mancata estradizione dal Brasile dell'ex terrorista Battisti e la cattura del boss dei casalesi Setola. E ancora i primi spiragli sulla tregua a Gaza, le notizie non buone, a dir la verità, sul fronte delle borse e dell'economia. Vediamo adesso i titoli principali dei quotidiani, partiamo dal Corriere della Sera. Immigrati, no dei vescovi alla tassa, è l'apertura del giornale. Maroni, facciamo come i paesi europei, passa il reato di clandestinità. Dalla giustizia al decreto anticrisi, tensione nel polo. I sindaci leghisti non rispetteranno il patto di stabilità. Di spalla la guerra in Medio Oriente, apertura di Hamas sulla tregua a Gaza, i morti saliti a 1000, oggi in Egitto l'inviato israeliano. A centropagina del Corriere della Sera abbiamo la mancata estradizione di Battisti, il Brasile non estrada Battisti, l'Italia protesta con Lula, all'ex terrorista lo status di rifugiato politico. Ma anche la notizia che avete sentito nei GR è arrivata ieri sera tardi con la fotografia di Steve Jobs. Steve Jobs lascia Sto male, il fondatore di Apple, via per 6 mesi. La Repubblica, immigrati, la CEI, no alla tassa, passa il reato di clandestinità, Bossi attacca Fini e Berlusconi, i vescovi, balzello ingiusto, Maroni, io vado avanti, i sindaci leghisti, sforeremo anche noi il patto di stabilità. A centropagina la fotografia di Battisti, il Brasile nega l'estradizione di Battisti e sempre a centropagina in evidenza le notizie economiche, crolla la produzione, affondano le borse, a novembre l'industria frena del 12%. A picco il settore auto e anche qui richiamata la malattia di Steve Jobs. Steve Jobs è più grave in malattia fino a luglio. Con evidenza sul giornale anche il Medio Oriente, Gaza da Hamas uno spiraglio per la tregua. È richiamato anche il reportage che poi vedremo di Guido Rampoldi tra i guerriglieri che controllano la striscia. Anche la stampa punta l'apertura sulla politica, la Lega sfida il governo, le città del nord non rispettino il patto di stabilità come Roma. Dopo Fini, Bossi all'attacco anche su giustizia e graffitari, ma Berlusconi cerca di ricucire con gli alleati. E qui c'è un retroscena su La Russa, rischiamo di fare la fine del PD, dice il ministro di AN, La Russa attacca, giù le mani dal presidente della Camera. A centropagina le notizie dall'economia, produzione industriale a picco, anche l'auto precipita meno 46%. L'OCSE pessimista, in Eurolandia il peggio deve ancora venire. La Merkel vara un piano di aiuti da 100 miliardi. La fotografia di prima pagina della stampa è un personaggio amato da chi guarda la televisione, il Dr. House, USA tracollo ospedali a 5 giorni dall'insediamento di Obama. Se ci sarà tempo vedremo poi questa inchiesta sulla sanità americana. Il Sole 24 Ore punta sul via libera alla manovra anticrisi da 5 miliardi, alla Camera 372 sì nel voto di fiducia, 252 no, da Lega e MPA polemiche su enti locali e fondi per il Sud. Ma un titolo in grande evidenza è dedicato alle borse, borse in caduta con le banche e i consumi USA, Citigroup e Deutsche Bank pesano sui listini, Wall Street meno 3,3%, alta richiesta di BTP, oggi la BCE taglia i tassi. La fotografia è dedicata a Angela Merkel e al premier cinese Wen Jiabao, la Cina sorpassa la Germania e diventa la terza potenza economica. Oggi in edicola con il Sole vi segnalo anche il nuovo corso Master 24 dedicato all'arte di comunicare. Il Messaggero, tasse immigrati no dei vescovi, reato di clandestinità via libera del Senato, multa fino a 10.000 euro, la CEI contro l'imposta voluta dalla Lega, punito chi è già poco tutelato. E a centropagina invece l'altra notizia di cronaca, preso Setola, il boss dei casalesi. Nei giorni scorsi era scappato attraverso le fogne. Ai carabinieri ha detto: avete vinto. Il giornale insiste nella sua inchiesta su Di Pietro e apre con il sistema Di Pietro per gli appalti. Da ministro l'ex PM ha istituito oltre 400 commissioni di controllo, così ha dilatato i tempi e aumentato le spese, ma per ogni gara ha piazzato un suo uomo che lo garantisse sull'aggiudicazione dei lavori. In grande evidenza con la fotografia Cesare Battisti, no del Brasile all'estradizione, terrorista, no vittima, e Battisti è in libertà. L'Avvenire su Gaza, tregua a Gaza ma si spara, l'Egitto annuncia la svolta, Hamas deve fermarsi Israele. Ancora razzi anche dal Libano e l'esercito replica duramente. Il segretario ONU da Gerusalemme, uso eccessivo della forza, 1000 le vittime. Al centro della prima pagina di Avvenire, brusca caduta della produzione, borse a picco, a novembre meno 12,3%, le notizie dall'economia. Libero invece su Berlusconi, il dilemma di Berlusconi, il premier tra due fuochi, Silvio deve tenere a bada i due alleati, Bossi batte cassa per Malpensa e rompe sulla giustizia, Fini è stufo e si prende qualche rivincita in Parlamento. La Padania naturalmente punta sull'attacco leghista, i sindaci del nord contro Roma, nuovi privilegi per la capitale, esclusa dal rispetto del patto di stabilità e quindi dai risparmi. Insorgono i comuni virtuosi, un altro schiaffo alla Padania, si riaccende la spia della questione settentrionale, le nostre casse restano terra di conquista. L'Unità invece è un'apertura tutta diversa, dedicata a un'inchiesta del giornale. Il titolo è Indifese, crimini domestici, delitti, stupri e botte, 149 gli omicidi passionali in un anno. Lasciate sole, il governo boccia tutte le norme dell'opposizione a tutela delle donne. Gli altri due richiami nella prima pagina dell'Unità sono dedicati al tema economico, l'industria a picco, giù del 12%, emergenza auto. E agli immigrati. La destra contro gli immigrati, sì al reato di clandestinità. La fascia rossa in alto, che riprende una notizia del giorno, è invece questa. Cosa ci riserverà in futuro la fantasia padana? È civile negare le cure agli immigrati come è avvenuto in Friuli? È civile lasciarli vivere come bestie come è successo in Calabria? Il governo non ha mosso un dito. È una citazione da Famiglia Cristiana del 14 gennaio. Il Manifesto dedica l'apertura e la copertina a Massimo D'Alema. Il titolo è La solitudine dei numeri primi. Le scomode verità di D'Alema. Dire che a Gaza c'è un massacro, non una guerra, definire una spedizione punitiva all'offensiva israeliana e denunciare una campagna mediatica a favore di Tel Aviv gli ha procurato attacchi anche all'interno del suo PD e risentimento del maggior quotidiano nazionale. Sabato 17, pacifisti in piazza. L'editoriale poi invece dedicato alla guerra a Gaza, il titolo è Piombo impunito. Il Riformista e Bossi si slega, picconate a Berlusconi e PDL, frena sulla giustizia, irride gli alleati e i suoi sindaci minacciano la rivolta delle spese, scontro con la CEI sulla tassa agli immigrati. Infine il Secolo XIX, a fondo dei vescovi sulla tassa immigrati, la clandestinità è reato, giustizia, lite Berlusconi Lega. Con questo ci fermiamo qualche minuto per dare la linea al GR. La stampa Belletta, la stampa. Eccoci di nuovo in onda, proseguiamo la lettura dei giornali. Dopo aver visto i titoli principali, proviamo ad approfondire qualche tema. Partirei dalle tensioni nel governo, dalla tassa sugli immigrati e prendo Repubblica, che la racconta così. La Conferenza Episcopale Italiana critica il governo sull'immigrazione. Riteniamo inaccettabile la tassa sul permesso di soggiorno, che sarebbe meglio definire balzello nei confronti di una categoria già poco tutelata, ha detto ieri padre Gian Romano Gnesotto, responsabile di CEI Migrantes. La replica del ministro dell'Interno Maroni, noi andiamo avanti. Nel frattempo, il Senato ha approvato ieri la norma che introduce il reato di immigrazione clandestina. Cresce intanto la polemica tra la Lega e gli alleati. Bossi, sulla giustizia non c'è intesa. I sindaci del Carroccio, anche noi sforeremo il patto di stabilità. Questo è il riassunto della giornata politica secondo Repubblica, che dedica poi a pagina 7 un retroscena allo scontro ancora tra Gianfranco Fini e Silvio Berlusconi, scontro che ieri Berlusconi ha minimizzato sostenendo che era tutto a posto e che quindi era tutto rientrato. Invece Repubblica dice: ma Gianfranco resta in trincea, è in gioco il mio futuro politico ed è intesa con Napolitano sulla difesa del Parlamento. La pace è ancora lontana, lo scontro tra Gianfranco Fini e Silvio Berlusconi non si ferma e il Presidente della Camera, per frenare il Premier, gioca anche la carta istituzionale, lo scrive Claudio Tito a pagina 7 di Repubblica. Sale sul Quirinale e riferisce quel che è successo martedì scorso dopo la richiesta di fiducia del governo. L'inquilino di Montecitorio cerca insomma l'appoggio del Colle e lo ottiene. Del resto Giorgio Napolitano è da sempre uno strenuo difensore della centralità del Parlamento. Anche in occasione dell'incontro natalizio con le alte cariche dello Stato aveva puntato l'attenzione sul ruolo delle Camere. La sintonia tra i due è ormai una costante di questa legislatura. Anche le proposte finiane sulla giustizia sono state in parte il frutto del confronto con il Presidente della Repubblica. Ieri allora, prosegue questo articolo di Repubblica, ieri allora per il capo di AN l'incontro con il capo dello Stato ha rappresentato in primo luogo un'arma difensiva. Gli affondi di Palazzo Chigi non sono mancati, come quelli della Lega e di quel partito del Nord che nella maggioranza sta quotidianamente schierando le sue truppe. Invece il Corriere della Sera dedica alle differenze all'interno del governo l'editoriale di prima pagina di Massimo Franco. Il titolo è «Il valzer dei distinguo». Forse non succederà nulla, comincia così Massimo Franco, e come ripete Silvio Berlusconi, il 27 marzo nascerà il partito unico del centrodestra. Eppure le tensioni che affiorano a intermittenza sempre più frequente tra Gianfranco Fini e il Premier non promettono una metamorfosi indolore, né forse così scontata come appariva fino al 2008. Le impennate del Presidente della Camera sulla riforma della giustizia e sulla fiducia chiesta dal governo al Parlamento riflettono il suo ruolo istituzionale, ma non solo. La sensazione è che vadano lette sullo sfondo del braccio di ferro in atto fra Palazzo Chigi e AN e del disagio che le incursioni leghiste provocano nelle file alleate. Imponendo leggi contro gli immigrati, Umberto Bossi scava un fossato culturale scivoloso fra governo e Chiesa Cattolica e, aizzando i sindaci delle città settentrionali contro Roma, crea nella maggioranza un'insofferenza cronica. La tensione strisciante fra Berlusconi e Fini rimanda al modo in cui i due maggiori partiti del PDL vedono il proprio futuro. Per Berlusconi, al voto europeo si presenterà una sorta di Forza Italia allargata. Insomma, più che un'unificazione con il partito di Fini, si tratterà di un assorbimento della destra. Questo sembra essere il motivo vero dello scontro tra i due. Su invece la questione immigrati, il Corriere della Sera a pagina 2 ha un'intervista abbastanza interessante a Odi Freddi, il matematico e saggista noto per essere laico. Il titolo è «Odi Freddi, l'ingerenza è inaccettabile anche quando le parole ci piacciono. La CEI c'è sempre». Scherza il matematico e saggista laico e anticlericale Pier Giorgio Odi Freddi, ma poi ridiventa serio. Intervenendo su tutto, è chiaro che il Vaticano scatena il balletto dei favorevoli e dei contrari, ma indipendentemente dal fatto che quello che dice, come è successo stavolta, piaccia al centro-sinistra oppure no, resta la questione fondamentale, l'interventismo della Chiesa. Ha fatto male la CEI a parlare in favore degli immigrati, chiede Mariolina Ios sul Corriere della Sera, ha fatto male a parlare. Il Vaticano dovrebbe farsi, diciamo così, i fatti suoi, anche quando parla in un modo che può piacerci, ma in questo interventismo ha due corresponsabili. E quali sarebbero, secondo Di Freddi, il mondo dei media, giornali, ma ancora di più le televisioni, quelle pubbliche di Stato che danno rilievo a ogni pronunciamento del Papa e dei Vescovi. La Stampa invece torna sulla vicenda dello scontro tra Berlusconi e AN con un retroscena in cui c'è una chiacchierata con Ignazio La Russa, ministro della difesa e uno dei leader di Alleanza Nazionale. Il titolo è, a pagina 3, La Russa, rischiamo di fare la fine del PD, e al leader del Carroccio si impicci degli affari suoi. Malgrado tutto quello che gli succede attorno, Silvio Berlusconi vuol far vedere che è di buon umore. Ieri invece ha dovuto registrare un'altra giornata di tensione che si è conclusa con il suo appello a 72 deputati sudisti che gli hanno scritto per protestare contro le continue penalizzazioni subite dalle regioni meridionali. Questo scrive Amedeo La Mattina nel suo retroscena, pagina 3 della Stampa. Bossi si permette di invadere anche il campo alleato e dire che la fusione del PDL non funziona. Si impicci dei suoi affari e della sua base, replica Ignazio La Russa, che chiede a Bossi un po' di decenza e di non esagerare nella competizione. Ecco, mentre Berlusconi dice di essere allegro, i dirigenti di AN seduti nei divanetti di Montecitorio hanno i musi lunghi. Tutti, precisa La Russa, devono abituarsi al fatto che Fini è anche il leader di AN e che ogni offesa a Fini è un'offesa ad AN. E questo dice La Russa. Invece il Sole 24 Ore torna dalla prima pagina e poi prosegue all'interno sulla questione della provocazione leghista sul patto di stabilità, dal quale è stata esclusa Roma, mentre invece le altre città no. Il titolo dell'articolo di Giorgio Santilli, che parte dalla prima pagina del Sole 24 Ore, è «Sindaci leghisti fuori dal patto, la provocazione di Bossi». L'alleggerimento di Maastricht solo per Roma manda sulle furie Umberto Bossi, che incita «Facciano la stessa cosa i sindaci del nord, una strada a rischio per i conti pubblici». Cosa scrive il Sole 24 Ore, pagina 3. A Umberto Bossi non è andato giù di votare con la fiducia anche l'allentamento dei vincoli di Maastricht per il solo comune di Roma. Una norma scritta in modo ambiguo e inserita in un pacchetto più ampio di modifiche durante le votazioni in commissione che l'Aula di Montecitorio ieri ha potuto solo ratificare. Il governo ha precisato che l'esenzione è limitata a 700 milioni di investimenti per le metropolitane, ma nel testo il limite non è scritto con chiarezza. Bossi allora ha annunciato il malumore alla sua maniera. I comuni del nord si svincolino da soli dai rigori del patto di stabilità e sforino i bilanci. Quello del senatore, prosegue l'articolo del Sole 24 Ore, è un proclama che ricorda altre incitazioni alla rivolta di un antico passato leghista, la secessione da Roma ladrona, lo sciopero fiscale. Bossi ha probabilmente in questa occasione un obiettivo politico più limitato. Gioca sul malumore lombardo per Malpensa ed Expo, riconfermato anche dall'incontro Moratti-Berlusconi di ieri, per tenere il governo sotto schiaffo e incassare il federalismo fiscale. Ma gioca anche sul malumore di molti sindaci del nord, non solo leghisti o di centrodestra, che hanno spesso messo in campo comportamenti virtuosi ma non per questo sono stati premiati. Ma l'uscita di Bossi ha anche un risvolto concreto, conclude il Sole 24 Ore. Rischia di mandare per aria i conti pubblici italiani, proprio nel momento in cui le agenzie di rating e il mercato mostrano di apprezzare la linea del rigore scelta dal Tesoro per il bilancio statale. E naturalmente di questo si occupa anche la Padania, che ha il suo titolo di apertura dedicato a questa vicenda, i sindaci del nord contro Roma. Nuovi privilegi per la capitale, esclusa dal rispetto del patto di stabilità e quindi dai risparmi, insorgono i comuni virtuosi, un altro schiaffo alla Padania, si riaccende la spia della questione settentrionale, le nostre casse restano terra di conquista. La pazienza ha un limite e quella degli amministratori locali leghisti ha toccato livelli di guardia, così comincia l'articolo di prima pagina di Alessandro Montanari sulla Padania. L'inserimento nel decreto anticrisi, blindato con la fiducia di una deroga biennale al patto di stabilità per il solo comune di Roma ha infatti provocato la durissima reazione dei sindaci e presidenti di provincia del Carroccio, che per reazione hanno subito deliberato un'interpretazione estensiva della norma. È un'evidente autorizzazione morale, scrivono in un comunicato congiunto, a tenere lo stesso comportamento per tutti i sindaci che hanno ben gestito i loro bilanci. O la regola vale per tutti, scrive la Padania, oppure non vale per nessuno. Ecco, vorrei a questo punto rimanere sulle questioni più vicine all'economia e prendo anche in questo caso il Sole 24 Ore che ha richiamato con grande evidenza la giornata economica di ieri sulla prima pagina e poi all'interno. Borsa in caduta con le banche e i consumi USA, l'abbiamo visto prima, alta richiesta di BTP, oggi la BCE taglia i tassi. Come sintetizza la giornata di ieri sulle 24 ore? Il crollo di Citigroup, meno 23% a New York dopo il riassetto, e di Deutsche Bank, meno 9% a Francoforte dopo l'annuncio di maxi perdite, ha depresso ieri tutti i titoli bancari e in generale le borse. In Europa i ribassi sono arrivati fino al meno 5% di Londra, mentre a Wall Street l'indice Standard & Poor's 500 ha chiuso a meno 3,3%. Ha pesato anche l'ennesimo dato negativo sull'economia USA. In dicembre le vendite al dettaglio sono calate, meno 2,7%, molto più del previsto. Le incertezze delle borse continuano a favorire i titoli di Stato, molto alta anche ieri la domanda di BTP. Oggi la riunione della Banca Centrale Europea. I mercati si aspettano un taglio dei tassi di almeno mezzo punto percentuale. A pagina 7 del Sole trovate poi tutti gli approfondimenti. E infine anche il dato sulla produzione industriale, ancora in discesa. A novembre calo del 12,3%, l'auto dimezza l'attività. Il Centro Studi Confindustria rivede al ribasso le stime sul PIL 2008, giù dello 0,6%. Mi fermo a questo punto per qualche minuto per dare la linea alle notizie sul traffico. È la stampa, bellezza, la stampa. Ancora buongiorno a tutti per l'ultima parte della rassegna stampa di Radio 24. A questo punto vorrei tornare invece sulle notizie internazionali e su Gaza, su questi primi spiragli di tregua. Prendo Repubblica, che ha un reportage abbastanza interessante di Guido Rampoldi. Il titolo è «Tra i guerriglieri che controllano la striscia». Il cielo appartiene a Israele, ma in città comanda tuttora Hamas. I suoi capi, i suoi guerrieri, escono dopo le 9 di sera, quando scatta il coprifuoco. Di giorno non si fanno vedere, se non sul valico di confine con l'Egitto. Una decina, non uno in divisa, un paio a piedi nudi, gli altri in tuta da ginnastica, tre con una camicia avana di foggia militare, imbronciati, diffidenti, ma nel loro modo rustico grati all'europeo che si affaccia da questa parte. Discutono a lungo se autorizzarti a raggiungere Gaza City a bordo di un'ambulanza, ma concludono che non è possibile. Le ambulanze egiziane non fanno questo genere di trasporti e le ambulanze palestinesi non viaggiano tra il nord e il sud della striscia. Gli israeliani le mitragliano, ma no, mica sempre, è gente civile quella, ghigna l'unico che parla l'inglese. Hanno l'aspetto di un gruppo di sbandati, eppure Hamas non sembra affatto allo sbando. A Rafah ha perso il municipio e le stazioni di polizia, spianati dalle bombe israeliane, ma non il suo potere di controllo. Non riesce a garantire la pulizia delle strade, peraltro sporche anche prima della guerra, ma se chiami il 100, l'equivalente del nostro 113, accorrono, rapidi ed efficienti. Due giorni fa hanno arrestato un ladro di motorette e, non potendo metterlo in guardina perché non c'è più una guardina, l'hanno ammanettato a un palo di ferro in modo che i passanti potessero sputargli addosso. Vista da questa città, scrive Rampoldi a pagina 2 di Repubblica, la prima dopo il confine egiziano, la guerra di Israele è molto più chirurgica di quanto si mostri in queste ore a Gaza City, ma altrettanto insensata. Il reportage è lungo ed è corredato da una serie di fotografie sempre molto belle. Invece torniamo alla cronaca italiana e parliamo di Battisti e la mancata estradizione dal Brasile. Prendo il Corriere della Sera, la cronaca ovviamente riportata in grande evidenza su tutti i quotidiani, prendo il Corriere della Sera perché ha in più un retroscena fatto di un colloquio con l'ex Presidente della Repubblica Cossiga, perché il titolo è «Il ritorno in libertà per una lettera di Cossiga». L'articolo di Giovanni Bianconi parte dalla prima. Buonasera, di che cosa vuole parlare? Della mancata estradizione di Cesare Battisti, senatore Cossiga. Ah, ma lo sa che in questa storia c'entro anch'io? Sì, lo sappiamo, è scritto al punto 28 della decisione comunicata ieri dalle autorità brasiliane all'Italia. Il servizio prosegue poi a pagina 17. Il ricorrente, si legge nel provvedimento del ministro della giustizia Verde Oro, laddove ricorrente significa proprio Battisti, ha presentato una lettera di Francesco Cossiga, influente politico italiano negli anni 70, che partecipò attivamente all'elaborazione delle leggi di emergenza italiane. Oggi senatore della Repubblica, Cossiga attesta che i sovversivi di sinistra venivano considerati nell'Italia degli anni di piombo come semplici terroristi e talvolta come criminali comuni. L'autore della lettera sostiene tuttavia l'improprietà di questa classificazione attribuita al ricorrente. Ecco senatore, Cesare Battisti, che pure lei chiama terrorista, tornerà libero anche grazie a questa lettera. Imbarazzato? No, risponde Cossiga, perché mai? Io quelle cose le ho sempre pensate e dette, e dunque non potevo fare diversamente. Un giorno nella posta elettronica ho trovato il messaggio di un'avvocatessa francese che mi chiedeva di mettere per iscritto le posizioni che io avevo già tante volte sostenuto e che loro conoscevano bene, per allegarle agli atti della causa di Battisti in Brasile. Io l'ho fatto, tutto qui. Del resto in Italia continuiamo a rifiutarci di discutere sulle vere cause del terrorismo in Italia, per non arrivare a dire che i terroristi erano dei marxisti-leninisti che provenivano dal PC. Prima della diplomazia italiana, però, conclude il retroscena di Bianconi, il caso Battisti pone il problema dell'uscita dagli anni di piombo, che sembra non arrivare mai, nonostante le posizioni di Cossiga. I sequestratori e gli assassini di Aldo Moro sono tutti fuori, dice l'ex ministro dell'Interno dell'epoca, tranne Rita Algranati, che sono andati a riprendere in Algeria da pochi anni solo perché gli era sfuggita prima. È un'ingiustizia. Quindi lei è favorevole alla sempre citata ma mai realizzata soluzione politica? Oggi non credo sia più possibile, la gente non capirebbe, ma io ero favorevole pure all'amnistia, mentre più contrari sono sempre stati i comunisti. Questo è il retroscena con il senatore Cossiga sul Corriere della Sera. A questo punto ci avviciniamo agli ultimi minuti di rassegna stampa. Volevo parlare di Steve Jobs e di Apple, perché è una cosa che interessa moltissimi e che poi avrà anche delle conseguenze sulla giornata di borsa di oggi. Prendo il Corriere della Sera: svolta Apple, passo indietro di Jobs, malato, mi ritiro fino a giugno. La gestione operativa del gruppo passa a Tim Cook. La lettera ai dipendenti, una situazione più complessa del previsto. L'annuncio dopo la chiusura di Wall Street: la mia priorità ora è capire di che cosa soffro. L'articolo di Massimo Gaggi, il corrispondente dagli Stati Uniti, a pagina 35 del Corriere della Sera. Steve Jobs lascia, almeno per i prossimi 6 mesi, la guida della Apple, la società da lui fondata. Le sue condizioni di salute sono peggiorate e l'imprenditore ha spiegato in una lettera diffusa ieri sera, subito dopo la chiusura delle borse americane, che i medici prevedono ora un percorso di cura più impegnativo di quello che gli era stato presentato solo pochi giorni fa. Fino al prossimo giugno i suoi poteri di amministratore delegato verranno esercitati dal direttore generale della società Tim Cook. Poi si vedrà. Nel dopo borsa il titolo Apple ha perso il 10% del suo valore, mentre le trasmissioni finanziarie serali hanno cominciato a riferire le dichiarazioni pessimistiche di alcuni anonimi manager dell'azienda californiana, secondo i quali Jobs rifiuta di prendere atto della realtà delle sue condizioni, che sono molto gravi. Con scarsa sensibilità per il dramma umano dell'imprenditore, i conduttori hanno cominciato a chiedersi se Jobs si sia comportato correttamente con gli investitori, negando per mesi che le sue condizioni fisiche potessero condizionare la sua attività professionale. Su Repubblica si citano ampi stralci di questa mail di Jobs ai dipendenti che, dice l'articolo di Aldo Fontana Rosa su Repubblica, ha un tono confidenziale, è firmata semplicemente Steve. Ricorda la sua lettera del 5 gennaio, in quell'occasione spiega: ho condiviso con voi qualcosa di personale, per mia sfortuna la curiosità sulla mia salute è una distrazione che non solo per me e la mia famiglia ma per tutta la Apple. Per consentirmi di concentrarmi sulla malattia e a voi di lavorare sui nostri straordinari prodotti, ora decido di fermarmi. Una scelta, aggiunge, che il consiglio di amministrazione supporta in pieno. Non vedo l'ora di rivedervi tutti, conclude già quest'estate Steve. E per rimanere in tema sanitario. Sulla stampa c'è questa inchiesta di Maurizio Molinari dal titolo Il crack della sanità oscura l'Obama Day, ospedali in bancarotta e pazienti allo sbando. Si allarga lo tsunami economico. A 5 giorni dall'inaugurazione di Barack Obama, i festeggiamenti in preparazione a Washington si sovrappongono a una crisi economica che investe gli ospedali. E questo l'articolo della stampa. Il dramma: una clinica californiana ha chiuso pediatria mettendo alla porta 100 bambini. L'emergenza sanitaria sarà uno dei primi obiettivi del presidente. Con questo noi ci fermiamo per oggi. Un saluto da Marina Macelloni, a risentirci a domani.